tempo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Una puntata con ospiti che io adoro, sono orgogliosissima delle voci che saranno con noi questo pomeriggio a RadioTube Social Village e Social Network. Qualche nome ve lo faccio? Ma sì, allora avremo Ligabue, avremo Claudio Baglioni, poi ci saranno degli amici di Radio 24 che ci vengono a trovare, 349-238-6666 il numero per gli sms e WhatsApp, chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram, sono i miei account social, ma cominciamo con un altro grande ospite che introdurrei così. Lo marel sempre chi el me guarda, el me dice di ste fe qui mani in mani, gli risponde a gode fa in quarantena. Mi sono desidera suonare il piano. Abbiamo già parlato a RadioTube di questo pezzo bellissimo, Lumarel, un pezzo che è stato scritto durante il primo lockdown da un cantante e autore straordinario che vogliamo festeggiare perché è uno dei vincitori della benemerenza più importante del Comune di Milano, proprio a pochissimi giorni da Sant'Ambrogio. Bentornato a RadioTube a Fabio Concato. Buongiorno Fabio. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie Fabio, beh, intanto che dire, complimenti, che bella notizia, giorni importanti, bellissimo. Ma sì, devo dire, è una bella notizia soprattutto per me, insomma, nel senso che ho davvero avuto soddisfazioni incredibili in questo periodo, ma soprattutto sono felice di aver fatto la mia parte, ecco, come dire, in questi mesi così dolorosi. Oddio, anche la mia canzone è dolorosa, anche Lumarel è dolorosa, ma credo di aver portato comunque un po' di conforto a chi l'ha ascoltata, ecco. Quindi è stato il mio modo di essere vicino a tutte quelle persone, è stato il mio modo di consolarle, ma anche di consolare me stesso, intendiamoci. Fabio, sei stato forse il primo a dipingere con una canzone quello che stava succedendo? Sì, non so se esattamente, ecco, io l'ho dipinto a mio modo, insomma, avevo proprio un desiderio impellente di scrivere, e questo Umarel che era posizionato, che è ancora oggi posizionato sul leggio della tastiera, a un certo punto sembrava proprio che me lo chiedesse, no? Che a un certo punto mi dicesse: senti, ma allora cosa facciamo? Si può fare qualcosa? E quindi io ho cominciato da lì e ho scritto questa canzone alla velocità della luce. È vero che stavo già girando intorno alla musica senza sapere perché e per come, ma è anche vero che il testo in milanese è venuto fuori in 40 minuti, insomma in 45 minuti ho chiuso la canzone. E io mi fido sempre moltissimo delle cose che mi vengono fuori in questo modo, senza poi tornarci sopra, senza aggiungere, senza togliere, eccetera. E quindi è stata una sorta di piccola folgorazione, ecco. E se prima era una canzone che hai lanciato in rete, adesso diventa un disco vero, possiamo dire così? Certamente diventa un disco, quindi sarà acquistabile. Prima era soltanto ascoltabile, ma non scaricabile, scusa se continuo a usare questi termini. Da gennaio ci sarà anche un vinile con dentro Lumarel, ecco, quindi vinile di canzoni che io avevo fatto voce e chitarra insieme a un amico chitarrista, direi un po' da camera, nel senso che me le sono immaginate cantate come potrebbe cantarle chiunque di noi, insomma, in camera o in bagno o mentre si fa il nodo della cravatta. Ma sì, Fabio, lo sai, è vero che la nostra sede ancora per un po' di tempo sarà in questo palazzo che è davanti al Derby. Beh, sì, lo so. Tu hai iniziato al Derby. Certo, ho iniziato al Derby con Giorgio Porcaro, con un trio che si chiamava I Mormoranti, esperienza micidiale, palestra micidiale, viste anche insomma, le dimensioni del posto, gli spazi, ecco, è stata veramente una palestra micidiale. E poi lì ho conosciuto delle persone fantastiche, delle persone che sono ancora oggi fantastiche e che hanno fatto un sacco di cose, non solo per la città di Milano, insomma per il paese in generale. Parlo di Iannacci, parlo di... Beh, il Derby ha cambiato tanto in Italia, nella comicità, ma anche nella musica, cioè non solo da Milano, in tutta l'Italia. Direi proprio di sì, sì, anche di musica, bravissima, perché in realtà al Derby si suonava anche del jazz, insomma mio zio ha suonato per molti anni al Derby, suonava il contrabbasso, era un jazzista anche di una certa importanza, e quando io ho cominciato nel 73 lui mi guardava con una certa tenerezza e mi diceva: ah, che bello che era il Derby, l'ho fatto anch'io, Fabio. Insomma, è stato un posto assolutamente magico, straordinario, e io l'ho fatto dal 73 al 75 con questo gruppo. Insomma, avevamo preso anche i nostri bei premi, adesso te lo dico un po' da milanese. Insomma. No, era lo spettacolo era molto carino, aveva anche qualche velleità. C'è un'altra cosa che ti lega tanto a Milano, il fatto che Milano ci sia in tante delle tue canzoni, citata o suggerita in qualche modo. Sì, anche quando non è così esplicitata comunque. Si sente che sto parlando di Milano e da Milano, probabilmente. Insomma, è un fatto sì, che non sono mai riuscito a capire. Ma insomma, io ogni tanto ci azzecco, ascolto le canzoni di qualche collega e mi viene da pensare che magari l'ha scritta a Merano e poi vengo a sapere che era veramente a Merano. Insomma. Non lo so, forse dentro la musica c'è un po' tutto, basta saperla ascoltare, saperla leggere bene. Allora, io spero che presto le cose possano migliorare, perché io non vedo l'ora di averti in studio per presentare il tuo album, Vista Derby, ovviamente. Mi piacerebbe tanto, tanto, proprio quello, questo lo dico a te e a tutta la radio, perché mi piace molto quello che fate e quello che raccontate, quindi con grande piacere. Vista Derby, certamente, certo. Fantastico. Intanto abbiamo finalmente l'Umarell come disco e facciamo ancora tanti complimenti per l'Ambrogino d'Oro a Fabio Concato. Fabio, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie infinite. Da vostro Ambrogino d'Oro vestito. Grazie, a presto Fabio. Ciao Marta e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie infinite, un abbraccio a tutti. Radio Tube Social Village. Dipendesse da me, il telefono suonerebbe solamente notizie belle e bella compagnia. Dipendesse da me, non saresti che cosa fare e lo saprei anch'io. Volente o nulente, risponderò presente. Volente o nulente, non lascio indietro niente. Volente o nulente. te, l'avete riconosciuto, è il nuovo singolo di Ligabue insieme a Elisa. Ma questo singolo ha fatto da apripista un progetto molto, molto importante che ha fatto uscire in questi giorni Luciano Ligabue, l'album di inediti 7 e la raccolta 77+7 che affianca al nuovo album i 77 singoli Uomo Generoso Ligabue pubblicati dal 1990. In questi giorni abbiamo incontrato proprio Luciano Ligabue che ci ha spiegato un po' di cosa si tratta, cos'è questo progetto. Questo anno è stato un anno molto particolare nella sua sfiga, nella sua tragicità. Era un anno in cui noi avevamo in testa di fare tanto per festeggiare questi 30 anni che per noi meritavano la migliore delle feste possibili. Non abbiamo potuto fare quello che contava più di ogni altra cosa, cioè il concerto, che sapete è la cosa su cui più insomma, punto sempre. E quello che abbiamo potuto fare è stato comunque, allora, se non altro, visto che siamo stati costretti a fermarci, guardare il passato. È stata la prima volta in 30 anni in cui io, se uno guardo un po' ad esempio sul libro, anche è andata così, vedrete che ho pubblicato veramente tanto, forse troppo, però tutto questo mi ha fatto andare sempre avanti a testa bassa e ad ariete e non mi sono quasi mai soffermato su quello che ho fatto. Siccome anche la tragedia del Covid mi ci ha costretto, perché se non puoi guardare avanti guardi indietro, è venuta fuori questa voglia di raccontare la mia storia anche attraverso i miei occhi, no? Perché il libro, per l'appunto, per la prima volta è un libro in cui io parlo della mia storia. Ma oltretutto, insomma, è stato quasi magico vedere che sono usciti intanto tanti singoli, perché qualcuno ha fatto una media ed è venuto fuori che addirittura in 30 anni ogni 5 mesi è uscito un pezzo, quindi veramente, diciamolo, pure troppo. Però una cosa che mi ha veramente colpito, intanto il fatto che ci sia stata così tanta attenzione in 30 anni su così tanta roba pubblicata, è stato il fatto che io nel frattempo mi sono reso conto che magicamente quei singoli sono proprio 77 nel momento in cui li contiamo. Poi magari, se vorrete, parleremo del perché del numero. A questo punto, guarda, per quello che riguarda le canzoni, eravamo sempre lì, metti le mani nell'archivio, vedi che via via spuntano fuori queste cose, guarda caso, sono 7, e il fatto che siano canzoni assolutamente nuove, ma che abbiano per l'appunto un seme che viene dal passato, secondo me rientrava proprio in questa festa, e quindi è per questo motivo che le ho fatte uscire. Ho fatto in tempo ad avere un futuro che non fosse soltanto per me, più che un'ipotesi era sicuro, era per tutti, era con te. Ho fatto in tempo a perdere tempo in cambio di un sogno, di un pezzo di idea. A conti fatti non ho perso niente, era un buon cambio e la scelta era mia. Si trova sempre una ragione per brindare o ricordare o dimenticare, oppure stare solamente svegli al limite dei sogni, al limite dei sogni. Uno dei 77 singoli che ha pubblicato in questi anni Ligabue, ricorre tantissimo il 7, ci ha dato anche una spiegazione numerologica, 7 lettere il nome, 7 lettere il cognome, le date importanti della sua vita hanno tutte un 7 dentro, quindi poi 77 singoli, 7 inediti. Tutto nato in un anno un po' particolare, un anno in cui la creatività in generale ha fatto un po' fatica, ma è molto importante. Credo che la creatività sia legata comunque agli stati d'animo che uno prova. E in questa fase credo che tanti stiamo avuto parecchi stati d'animo diversi che vanno dalla... A volte non è solo preoccupazione, a volte è proprio una paura vera e propria, uno scotto psicologico che tutti stiamo pagando sicuramente, quello lo andremo a capire soltanto quando ci saremo fuori, il peso di questo scotto psicologico. Ed è chiaro che la creatività è condizionata comunque dal tuo umore, da quello che provi. Magari può anche essere, per esempio, una reazione a questa... ha un malumore forte che provi e quindi la voglia di, per contrasto, muoversi con un sentimento di speranza. Io su quello sapete che sono un po' quello che ha quel ruolo lì, no? Cioè, ho sempre cercato di trasferire un po' quella con il mio lavoro. Penso che ci sia anche in queste sette canzoni e credo anche di sentire che ci sia, nonostante un paio di loro si ritrovino a fare conti per l'appunto con il periodo attuale. Soprattutto mi piace pensare una cosa, sai, che io non credo che le canzoni possano risolvere effettivamente la vita delle persone, possano risolvere le crisi delle persone, possono però invece portare conforto, possono essere una mano sulla spalla, possono portare calore e soprattutto possono tenere compagnia. Io spero che queste nuove canzoni, unitamente anche insomma alla nostra storia che abbiamo pubblicato, stiamo pubblicando in questo cofanetto, possano per l'appunto tenere un po' di compagnia e portare un po' di quel calore che abbiamo cercato di metterci dentro. No, qua non rimborsano mai. E calendari a chiederci se stiamo prendendo abbastanza, abbastanza. Se per ogni sbaglio avessi mille lire, che vecchiaia che passerei. Strade troppo strette e diritte per chi vuol cambiare rotta oppure sdraiarsi un po', che andare va bene però a volte serve un motivo, un motivo. Certi giorni ci chiediamo è tutto qui e la risposta è sempre sì. Abbiamo sogni però troppo grandi e belli, sai, belli o brutti, abbiamo facce che però non cambia mai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Allora, tante canzoni di Ligabue sono canzoni che ti danno la carica, che ti danno la forza. Qualcuno le ha definite canzoni utili. Fra quelli che ho scritto ce ne sono alcuni a cui io accosto l'aggettivo utili, che è un aggettivo piuttosto triste se ci pensi, affiancato a una canzone. Però invece io non la vedo così, perché hanno tutte avuto una funzione di aiutare, riuscire a trasferire conforto in momenti difficili in alcune persone. È una cosa che in genere mi inorgoglisce, perché è semplicemente la condivisione di quello che prova un essere umano, cioè io, che insomma fa capire che quando si soffre ci si sente soli e quando si sente che un po' tutti passiamo attraverso certi passaggi e che sono per l'appunto passaggi, cioè prima o poi le cose cambieranno, quello già diventa un passaggio che ci permette di andare avanti. Io è chiaro che niente paura in questo momento è quasi fin troppo sfacciato come proclama, in un momento in cui comunque dobbiamo quantomeno preoccuparci, cioè dobbiamo essere capaci di gestire questa emergenza e di stare dove dobbiamo stare tenendo botta, cercando di non beccarlo il virus e cercando di non contagiarlo magari a persone che sono ancora più a rischio di noi. Però resta il fatto che in qualche modo noi dobbiamo riuscire a non avere poi più paura più di tanto, perché in questo momento rischiamo di avere paura anche del futuro, dei problemi che sono legati all'economia, del fatto che questo virus non passi più, del fatto che i vaccini non contino. Noi non siamo in grado di muovere quelle cose. Siamo semplicemente, in questo caso, spettatori, dobbiamo incrociare le dita e invece anche riuscire a pensare in positivo. Perché, insomma, niente... Non c'è niente che precluda il fatto che, come nei dopoguerra, e questa comunque a tutti gli effetti una specie di guerra, ci possa essere una ricostruzione con magari anche il prossimo boom. Possiamo sperarlo, se non altro. Certe notti, macchina calda, e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Però Roberta, in regia mi metti proprio certe notti, me la vorrei sentire tutta. Vabbè, allora, per concludere il nostro incontro con Ligabue, abbiamo parlato dell'album di inediti con la mega collezione dei singoli, c'è anche l'autobiografia, e poi abbiamo parlato del live, perché doveva esserci 30 anni in un giorno, un grandissimo evento che avrebbe inaugurato la RCF Arena di Reggio Emilia a Campovolo. L'evento è stato spostato al 19 giugno 2021, 30 anni in un nuovo giorno, si chiamerà, ma si sta preparando Ligabue o non ancora? Eccolo qua. In realtà non mi ci sto preparando, perché comunque sono ancora in una fase di estrema frustrazione, incazzatura, voglia, rabbia. Sono comunque una pentola a pressione colma di sentimenti dettati dal fatto, per l'appunto, che questa festa, che doveva essere in qualche modo una festa meritata, una festa che credo che avrei meritato io, che credo che avrebbe meritato chiunque aveva già preso il biglietto, e non sai quanto mi costi pensare comunque che avrà luogo con tutti i sei ma del caso fra ancora così tanti mesi. Io sono abbastanza convinto che quando sarà, perché prima o poi sarà, e noi facciamo i conti ancora che sarà quando l'abbiamo messa, cioè a giugno, quando sarà, io credo che fra voglia, roba da sfogare, frustrazione che si deve sfogare a sua volta, gioia che credo che proveremo, perché credo che il senso di liberazione di quella serata sarà anche qualcosa che andrà oltre il concerto, sarà un senso di liberazione da un'oppressione che sentiamo addosso. Io ho la sensazione che tante cose a livello proprio di stati d'animo capiteranno al punto che sarà quasi insostenibile il concerto per me. Dopodiché, ovviamente, come sempre, lo scopriremo solo vivendo, come diceva chi sa più qui, e vediamo per l'appunto quando sarà, come sarà. Radio Tube Social Village. Sa se ti alzi ancora mezza addormentata, se ti scaldi il petto con la tazza tra le dita, se ti fai la doccia sulle punte a schiena un po' inarcata, se ti provi tutti gli abiti e non c'è mai un sì. Chi lo sa se cerchi dove la è parcheggiata, se là in mezzo al traffico ti metti la matita, se ti volti verso me con la tua faccia stralunata. Io mi vedo e chiedo perché invece resto qui, se è meglio esserci o non esserci. Io non sono lì, lì dove eri tu, quando un'aurora ci stupì, in quel temporale che un'estate ci ammattì, dentro un bacio eterno che il cuore ci stordì, tra i desideri e giuramenti che il mondo non udì. Sento come se io fossi lì. E beh, ragazzi, quando si parla di Claudio Baglioni, chapeau Claudio Baglioni, in questa storia che è la mia, il 16° album di Claudio Baglioni, che è appena uscito. Abbiamo aspettato qualche anno dall'ultimo album di Inediti, 7 anni da Con voi, ma finalmente è arrivato questo album veramente molto denso, molto ricco, di Claudio Baglioni, che ha definito quest'album un'autobiografia. È un'autobiografia a cui mancano però le date, i nomi, i fatti, nel senso che alcuni fatti sono accennati, ma è una biografia, un'autobiografia talmente veloce, perché nel mio ricordo oramai è così. In tutti questi decenni che si sono sovrapposti uno all'altro, uno con l'altro, io ho perso il ricordo nitido di quando una cosa è successa. Emergono solamente alcuni singoli fatti, e quindi in Uomo di varie età è quello di essere arrivati a una parte cospicua, insomma, della carriera, nel senso che comunque io anni fa, quando sentivo qualcuno che faceva 40, ha fatto 30 anni, 40 anni di teatro, mi meravigliavo, cioè mi sembravano delle cose inarrivabili. Io l'ho superato anche i 50, anche se ho cominciato molto da piccolo, questo lo dico a beneficio di quelli che non lo sanno, insomma, non ho ancora 90 anni. E man mano che si va avanti, erano 7 anni che io non facevo un album. È vero che negli ultimi 3 anni ho fatto tante altre cose, quindi l'album così è andato avanti in parallelo rispetto a me, ma insomma, quindi diciamo che, però sono stati giorni e giorni, non tanto perché avessi, forse ho anche meno da dire, un po' come tanti miei colleghi, insomma, man mano che si va avanti si ha un po' meno da dire, ma quello che si vuole dire si cerca di dirlo meglio, proprio perché innanzitutto dobbiamo combattere con una storia dietro che vincerà sempre lei, perché non ci saranno, anche adesso magari qualcuno ha sentito già dire che questo è un buon album, qualcuno ha detto anche bellissimo, qualcun altro ha detto siamo ai livelli di quei dischi lì, però io so già che non è una partita che si può fare. In cuor mio sento anch'io che è un buon lavoro, perché so che tutto quello, quasi tutto quello che so fare ce l'ho messo dentro, e già comunque a distanza di qualche giorno da quando è finito già ci sono 20 cose che io vorrei rifare, perché sfumature che già sento che non sono state fatte proprio a modo, a mestiere. Allora credo che non sia nostalgia, ma ci sia proprio è stata un po' a un certo punto l'urgenza di finirlo. Io ho pensato spesso che il disco non l'avrei terminato, perché era troppo complicato, cioè avevo altre canzoni, era difficile anche scegliere cosa e come, però ecco, più che nostalgia è fermare il tempo di nuovo, mettere una specie di punto per andare poi a capo, per fare qualcos'altro dopo. Ho vissuto per lasciare un segno, come se non fosse mai finita. Ho portato la mia fede in pegno per non farla più cadere dalle dita. Ho sentito i brividi del mare quando canta ruggini di voci. Ho pregato molto su un altare, speranze vuote, infrante come noci. Allora, Claudio Baglioni e il suo nuovo album di inediti, un album nato proprio a cavallo di questo periodo di lockdown, di questo periodo di chiusura. Ecco come l'ha vissuto. Sono figlio unico e sono stato abituato a crescere da solo. In interi pomeriggi mia madre era una sarta, cuciva e io stavo... anche perché poi era una mamma molto un po' chioccia, molto prudente, specialmente essendo io appunto il solo suo Claudiuccio. E quindi erano, insomma, cominciai le discese a giocare nel cortile un po' più tardi, poi c'avevo gli occhiali, me li spaccavano sempre, insomma, non episodi di bullismo, ma insomma era comunque... E allora sono stato abituato a crescere da solo. Interi pomeriggi e forse questo, in questo nasce una capacità che è quella di andare a cogliere, a fotografare alcuni dettagli che invece chi è abituato a vivere in maniera più attiva, più dinamica, forse non si accorge perché ha altre cose da fare. La mia vita personale non è cambiata di molto perché io non sono mai stato uno che la sera usciva tanto, cioè ho avuto molto spesso bisogno, per come sono stato cresciuto, per come sono stato cucito dalla vita, di stare da solo, a volte anche per rifiatare dai grandi momenti in cui si sta in mezzo, se non altro, non dico con, ma in mezzo a tante persone. Quindi questa chiusura non mi ha toccato più di tanto personalmente, però mi ha fermato incredibilmente il lavoro. È strano perché proprio nel momento in cui uno pensava, dice vabbè, da una parte partecipo al guaio collettivo, perché comunque poi tutti ne abbiamo, io ho dovuto rimandare i concerti, tutto quanto, con quello che abbiamo detto che ne consegue, tutte le persone che lavoravano eccetera, insomma i tanti disagi che forse continueremo poi a subire o si continueranno a subire. Però dal punto di vista, per esempio, della composizione, del finire, io mi sono proprio fermato, come se questa vicenda mi avesse paralizzato, perché mi è sembrata talmente irreale e talmente priva di linee precise, no? Dicevo vabbè, adesso faremo questo, poi... Quindi in questa gran confusione io non sono riuscito, sono stato fermo 3-4 mesi senza fare più niente, è lì che ho pensato che non avrei finito nemmeno questo disco. Poi vabbè, poi ho ricominciato e alla fine ce l'ho fatta. La mia vita è cambiata poco, ma però il mio pensiero è ancora quello, che veramente sarebbe un peccato, sarebbe un disastro e una bestemmia se non sapessimo prendere il meglio, che non so quale sia, però il meglio da questa situazione, al di là dei lutti, dei guai, eccetera, oltre a quelli, però pensare veramente di fare tutto, non come eravamo prima, non di tornare come eravamo prima, ma di andare ad essere meglio di come eravamo prima. Non so com'è cominciata, forse ascoltando una radio, era un gigante di fronte a me. I temi di questo In questa storia che è la mia di Claudio Baglioni? Beh, soprattutto la vita e l'amore. Insomma, gran parte della mia produzione, la produzione passata, precedente, ha come contenuto il parlare dell'avventura e della disavventura del vivere, e dentro una parte preponderante ce l'ha l'argomento amore. Che per quanto, insomma, poeti, scrittori, romanzieri, cineasti, artisti figurative, di arti visive, abbiano tentato di scandagliare, ha sempre qualcosa da raccontarci, forse proprio perché è la materia, è il primo piatto quando ci si siede a tavola, e forse anche pure il secondo piatto e il contorno. Io ho pensato spesso che le canzoni siano delle canzoni d'amore, delle poesie, delle serenate, delle, anche quando non parlano esattamente d'amore. Questo album è improntato a questo, tolti i primi due, il primo e l'ultimo brano, che sono come fotografati con un grand'angolo, quindi tracciano una, cercano di dare una visione allargata della scena, una temporale e una di uno spazio interno, di una geografia più intima. Ho cercato con un teleobiettivo invece di andare a pescare tanti momenti di una vicenda amorosa, con la sua curva, con la sua parabola ascendente, la sospensione, la discesa e forse la ripresa di questa ruota gigantesca che forse è l'argomento che mi ha sempre interessato di più nella vita, l'unico che forse quello che anche ho capito di meno, che ho conosciuto di meno, però insomma c'era qualcuno che diceva che i cani abbaiano alla luna proprio perché non sanno che cosa sia. E allora cantarlo oggi significa, questo è un album che non parla assolutamente del momento cui stiamo vivendo. Penso che l'espressione dell'arte popolare o delle arti in genere siano quelle di uscire fuori, di astrarsi, di portarsi via da quello che è il succedersi degli eventi di cronaca. E in questo senso è pensato e coordinato un po' tutto il lavoro dell'album. Radio Tube Social Village. A voi, ma a me non è mai capitato, mai nella mia vita, e quindi spero non succederà, perché... Di essere felice? No, non questo, grazie Peppe, no. No, semplicemente di assistere a una rapina. No, è una male che non ti è successo. No, insomma, lo so, vorresti vederla? Tu in realtà da guardone quale sei? Vorresti poter partecipare? Non lo so, perché poi idealizzo sempre alla Tarantino, cioè mi immagino queste scene un po' divertenti, poi in realtà è molto tragica la dimensione della rapina. Però questo per dirvi che vi porto a Calcinato. Sì. In provincia di Brescia. Esattamente. Dove? Una delle trasmissioni più amate del palinsesto di Radio 24 Off Topic, con Alessandro Longoni, Andrea Roccabella, Beppe Salmetti, Riccardo Poli. Buongiorno ragazzi. Allora, Off Topic ha fatto un bambino, ha fatto un figlio? Buongiorno. Direi che sul figlio ti risponde un attimo Alessandro Longoni, poi torniamo al figlio, quello sì, diciamo. L'abbiamo fatto veramente, Marta, il figlio, l'ho fatto io, sì. In questo 2020 ho deciso di fare sto. La pandemia ha dato i suoi frutti. Esatto, bravo. Se vuoi sapere il nome o possiamo andare avanti? Ma non so, ce ne frega qualcosa. Ma direi di sì, gli ascoltatori. Si chiama Paride, vi piace? Sì, sì. Ok, basta. Allora, il nome Paride mi piace moltissimo, bravo Alessandro. Invece il podcast, il figlio radiofonico, come si chiama? Allora, si chiama Sul Filo, è un podcast teatrale. Quindi l'hashtag che ti proponiamo quest'oggi, innovativo, non scelto da noi ma dai nostri amici, della nostra corredazione, è Teatrofonia. Sì. Vogliamo coniare la teatrofonia. Ci sono sei notizie. Abbiamo dato noi di Off Topic sei notizie a un drammaturgo che ha scritto delle pièce teatrali e in 24 ore le ha proposte degli attori che le hanno registrate all'interno di un podcast che potete sentire su www.radio24.it. Adesso non vi do tutto il link perché sarebbe troppo lungo, ma lo trovate sul sito, sulle nostre piattaforme di ascolto, e ascoltateci. E la cosa bella è che siamo riusciti a strutturare tutta questa cosa all'interno del teatro Filodrammatici, in questo periodo anche di lockdown un po' difficile, allestendo con l'aiuto di Andrea Roccabella tutta la parte appunto di microfonazione, di regia sul palco, e abbiamo fatto tutto in presa diretta. Cioè, per esempio, non so, Roccabella serviva un ambiente esterno, è andato non so, in esterno con un microfono, ha seguito le persone per strada. No, Beppe, no. No, in realtà però abbiamo registrato i miei passi a piedi nudi. Un giorno mi ha fatto spogliare delle scarpe. Ma veramente? Mi fa cammina che ho bisogno di passi a piedi nudi, senza i piedi scalzi non andiamo via di qui. Non lo sapevo questo. Quindi mi ha fatto togliere le scarpe, abbiamo registrato i passi col microfono puntato proprio nei suoi. Sì, sì, sì. E quando hai detto che ti hai fatto spogliare mi sono spaventata. Ma sul filo di cosa? Sul filo del rasoio? Allora, sul filo del rasoio, bravissima, perché in 24 ore è molto complesso riuscire a scrivere una pièce di 10-15 minuti data una notizia. Cioè, la difficoltà del drammaturgo è proprio quella. Cioè, data la notizia, da noi gli facevamo ascoltare, diciamo, una piccola parte incisa qui in studio da noi tre, il drammaturgo doveva poi improvvisare una pièce. Poi in realtà, Marta, sul filo ha anche una citazione un po' colta, perché Goethe diceva che se il palco del teatro fosse largo come un filo, molte meno persone vorrebbero andarci sopra e molte più persone vorrebbero vedere che cosa succede dalla platea, per vedere se uno cade ad esempio. Quindi abbiamo preso questo modo, e anche perché i filodrammatici amichevolmente da chi li frequenta vengono chiamati filo, e quindi tutto rientrava nel titolo sul filo, teatro in tempi di radio. Quali sono le notizie scelte per le 6 puntate, vero? Sì, sono 6 puntate, abbiamo scelto delle notizie, come dire, un po' grottesche dal mondo, sia dall'Italia che dal mondo. Quelle notizie che arrivano un po' nella colonnina destra di Repubblica, la famosissima colonnina destra di Repubblica, hai presente? E, ma non so, le possiamo spoilerare o lasciamo un po' ma di sì. attesa, ragazzi? Ma io direi, dai le prime due, che stanno, che sono uscite, sono già uscite, proprio, sì. Già uscite. Sì. E dai la prima della settimana prossima. Ok, bravo, allora, è già uscita la prima puntata, è La cittadina modello, un episodio di rapina in banca nella provincia di Brescia. Era una posta, ma va bene. Vabbè, posta, ecco, vedi, sono dimenticato. Questo è il grado di attenzione, beh, gli è nato un figlio, dai. Esatto, le ore di sonno sono ridotte. Diciamo, luogo in cui si commettono. Bravissimo, poi c'è una coppia, lui fascista e lei di sinistra, e insomma si scontrano sulla politica, è successo veramente. Lui ex fascista probabilmente. Sì, esatto, è su quello che si è un po' giocato, se ha cambiato idea o no. E invece la prossima puntata sarà sui cani di Biden. Esatto, sì, esatto. Sì. Il punto di vista dei due animali che ritornano alla Casa Bianca dopo tanti anni e che vedono la presidenza Biden entrare alla Casa Bianca, quindi un punto di vista differente delle elezioni americane. Molto bene, ottima idea per un podcast. Ma ditemi come potete convincermi a scegliere il vostro in un mare di podcast, tanti podcast, troppi podcast. Eh sì, capisco il tuo ragionamento, io so dove ci vuoi portare, maledetta. Tu vuoi farci dire che ormai chiunque, anche il salumiere, può... Che bello sarebbe il podcast di un salumiere, Marta. Sarebbe stupendo. Tra l'altro, prima frase deve essere: volete sapere come ho fatto a diventare salumiere senza assaggiare ogni fetta? Che no, è un po' il grande dubbio, scusami, che tutti hanno. Cioè, come fanno loro, aspetta, a tagliare senza mai... Questo è vero. Oppure l'altro grande inizio potrebbe essere: ho fatto duetti e mezzo, lascio. Perché è la classica frase. Anzi, potrebbe essere duetti e mezzo il titolo del podcast sul Oppure salumiere. Solo lascio, punto di domanda. Lascio? Questo è il titolo del podcast. Bellissimo. Dai, però diciamocelo, ormai chiunque vuole fare un podcast. Abbiamo fatto una puntata su Tutti hanno un podcast, abbiamo avuto ospite Jonathan Zenti, e a questo proposito posso fare anche la marchetta del nostro programma. Ovvio, sapete che sono fan di Off Topic dalla prima ora. Quest'anno tra l'altro siete pure multipiattaforma. Sì, è vero, oggi, cioè quest'anno ci siamo un po' complicati la vita, ma gioiosamente, nel senso che siamo molto contenti di aver aperto la nostra redazione a tutti i nostri ascoltatori grazie a Telegram. Abbiamo un gruppo, una chat, si chiama Off Topic _24, e ci sono i nostri ascoltatori che interagiscono con noi, ci propongono luoghi comuni, chiacchieriamo un sacco, la discussione è sempre molto civile, devo dire, e di questa cosa sono molto fiero, e siamo molto fieri, scusate. E poi le ultime puntate le posso dire, abbiamo fatto L'amore cieco, Beata ignoranza, Se sei troppo buono la gente se ne approfitta, eccetera, quindi boh, le trovate sulle piattaforme. La migliore eccetera, secondo me. Eccetera, eccetera, sì, potremmo fare una puntata. Bellissima. Eccetera, eccetera. Poi oltre a Telegram abbiamo anche le live su Twitch, il mercoledì e il venerdì mattina apriamo la redazione del programma, quindi quando ci troviamo per fare brainstorming, come, di cosa parliamo, con chi lo affrontiamo questo tema, a tutta la nostra redazione, quindi possono interagire live con noi e proporci delle domande per gli ospiti, audio, spesso e volentieri arrivano i WhatsApp in diretta mentre stiamo facendo redazione, quindi l'abbiamo voluta chiamare la nostra piccola casa di vetro. La redazione di Off Topic è praticamente un posto dove tutti possono entrare e dire la loro, come un bar sostanzialmente. Sono invidiosissima. Adesso anch'io e Alessandro Schirano faremo un multipiattaforma dietro le quinte di Radio Tube. Farete anche voi il gruppo Telegram? No, un gruppo Telegram con solo però 2 iscritti, io e lui. Certo. Ma no, io voglio farne parte, scusami, no, voglio farne parte. Marta, se posso ti rubo 30 secondi, anzi 15, perché voglio ringraziare per il progetto sul filo il nostro Darth Vader, il nostro Deus Ex Machina, Andrea Roccabella, che ha impiegato tantissimo cuore, tempo e risorse per creare una sonorizzazione incredibile di questo podcast, e devo dire che ascoltarlo in cuffia, anche quando sei in metro, è sempre fruibilissimo, è sempre chiaro e molto bello da ascoltare, avvolgente, quindi insomma un applauso ad Andrea che ci ha messo un sacco di cuore e tempo. Allora andate a scovare sul filo nella sezione podcast originali di Radio 24. Marta, posso dirlo? radio24.ilsole24ore.com/podcast-originali/sul-filo. È così, non ci possiamo sbagliare. Esatto. Allora, grazie ad Alessandro Longoni, Andrea Roccabella, Beppe Salmetti, Riccardo Poli, questa sera alle 21 Off Topic e poi andate a scoprire il loro podcast Sul Filo. Grazie a te Marta, ciao. Grazie, ciao. Ciao.